Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 00 24. Buongiorno, parliamo del caso di un magistrato di grande notorietà nazionale, Luigi De Magistris, che a sorpresa, o forse assolutamente non a sorpresa, come era prevedibile, lo vedremo nel corso della trasmissione, ha deciso di candidarsi nelle liste di un altro magistrato celebre sul piano nazionale, Antonio Di Pietro, il quale, come lui, a un certo punto delle sue inchieste decise di staccare e entrare in politica. La cosa è controversa, è complicata e difficile, diciamo, da trattare, per una ragione molto semplice. I magistrati, lo ricorda Piero Ostellino oggi nel fondo del Corriere della Sera, in un sistema democratico liberale ordinato, dovrebbero essere la bocca della legge, punto e basta, un potere sostanzialmente neutro, un potere non, diciamo, nei sistemi nei quali tra l'altro i magistrati sono non eletti, come avviene per esempio in America, ma sono tali per concorso, insomma sono funzionari della legge che devono applicare con gli automatismi della legge l'azione penale. Ecco, in un sistema così i magistrati devono essere solo bocca della legge. Se sei bocca della legge vuol dire che devi essere terzo. Se sei terzo rispetto diciamo al cittadino indagato o poi giudicato, beh, non puoi essere parte, non puoi essere parte, cioè non puoi fare politica né quando fai le inchieste né passando dalle inchieste alla politica e dalla politica alle inchieste con troppa facilità. Questi sono i principi, però poi bisogna naturalmente ascoltare e sentire con attenzione anche le ragioni di chi apparentemente contraddice questi principi. E oggi è il giorno di De Magistris, il quale stamattina nella trasmissione Omnibus su, sulla 7 ha avuto modo ampiamente, diciamo che il magistrato è amico delle telecamere, di esprimere la sua opinione su se stesso, sulla sua scelta e di motivarla. In 48 secondi vi diamo De Magistris e poi credo che Deborah Rosciani potrà dare il via all'apertura delle borse. Mi attaccavano duramente quando facevo il magistrato, è giusto che lo facciano a maggior ragione adesso. Il discorso di Prodi e Mastella non lo voglio toccare perché non mi è stato consentito portare a termine quelle inchieste che mi sono state avocate e revocate in modo illegale. Prendo atto che Mancino si ricorda solo adesso di questo fatto che i magistrati in politica si pone un problema, ne prendo atto, ma sono d'accordo, soprattutto nel caso mio, che è stato tanto clamore e tanto scalpore, nel momento in cui si prende atto che non mi vogliono più far fare il lavoro che amo, il magistrato, e scelgo di svolgere un impegno politico per i prossimi anni, per il bene pubblico di questo Paese, io non posso poi creare una commistione tra magistratura e politica, quindi è una scelta definitiva. Bene, 800240024, la questione è molto semplice. Il diritto legale di presentarsi alle elezioni è tutto dalla parte del magistrato Luigi De Magistris, però l'opportunità etica, diciamo così, insomma, e la sensatezza, il significato nell'ambito di un sistema che si vuole appunto liberal democratico di divisione dei poteri, per cui un magistrato, insomma, da quel punto di vista ci sono molte cose da obiettare e molte sono state obiettate, per esempio da Filippo Facci, che è editorialista del giornale e che oggi ha scritto una requisitoria molto puntuta, molto forte sul caso De Magistris. In prima pagina, buongiorno Facci. Buongiorno a tutti. Abbiamo poi in studio Stefano Menichini, direttore del quotidiano Europa. Buongiorno. Buongiorno Stefano Menichini e Gianni Barbacetto, giornalista, autore di molti pamphlet polemici, diciamo del gruppo, dell'area in qualche senso, in qualche modo di Micromega, che è questa rivista molto, molto attiva, molto dinamica, molto militante, che sostiene con molta forza, con molta radicalità alcune delle ragioni che stanno, diciamo, dietro le scelte di Torino Di Pietro prima e di Luigi De Magistris oggi. Anzi, cominciamo proprio da lui, da Barbacetto. Barbacetto, io le dico questo, naturalmente io ho una posizione opposta alla sua, però adesso non voglio dare in modo troppo, come dire, unilaterale la mia posizione. Io le dico la mia esperienza delle cose. Io ho visto in televisione a un certo punto questo Luigi De Magistris, l'ho visto da Santoro, l'ho visto in varie altre trasmissioni, l'ho visto che faceva conferenze stampa in Europa. Cioè De Magistris ha a un certo punto denunciato quella che riteneva essere un'aggressione ai suoi danni, interna all'establishment giudiziario, perché a un certo punto la sua inchiesta è stata avocata, a un certo punto il ministro della giustizia di allora, Mastella, gli mandò gli ispettori, eccetera, eccetera, e ha cominciato a giocare un ruolo pubblico, secondo me, diciamo, difficilmente compatibile con quello di un magistrato che applica la legge, un ruolo sempre più incalzante, sempre più oratorio, sempre più politico, o civile. Non dico che sia sbagliato dal punto di vista della sua etica personale, ma la funzione del giudice, del magistrato, anzi, sono due funzioni diverse. E dopodiché è finita di nuovo in politica, come avvenne prima con Torino Di Pietro. A voi non sembra, a lei, non sembra che questa sia una vicenda che conferma che qualcosa di serio, di profondo non funziona nei rapporti tra magistratura e politica, e non solo dal punto di vista della politica che difende il suo spazio corporativo, la sua impunità, come si dice in genere, ma anche dal punto di vista proprio del funzionamento del sistema? Sì, è proprio sintomo di qualcosa che non funziona, cioè c'è un'ingerenza della politica forte sull'ordine giudiziario, tanto che si riesce per via giudiziaria ad impedire che le indagini scomode sulla politica arrivino a compimento. Quando si dice che il magistrato è di parte, basta guardare l'elenco degli inquisiti delle inchieste di De Magistris per vedere che per chiedersi ma da che parte stava De Magistris magistrato, visto che da una parte aveva inquisito il senatore Pittelli di Forza Italia, dall'altro aveva iscritto nell'elenco degli indagati un ministro del governo Prodi e lo stesso Prodi. Dove stava? Stava di qua o stava di là? Evidentemente stava dalla parte della legge, perché si aveva trovato elementi nei confronti del senatore Pittelli di centrodestra ed elementi nei confronti di Mastella e di Prodi del governo di centrosinistra, aveva iscritto sia gli uni che gli altri. Dunque da che parte sta? Anche questa candidatura, in un paese normale probabilmente il partito di Di Pietro non avrebbe motivo di esistere, perché in un paese in cui la legalità fosse l'orizzonte comune di destra e di sinistra, probabilmente un partito di Di Pietro non avrebbe senso. Nel nostro paese invece c'è bisogno evidentemente di un partito che ponga la legalità al di là della destra e della sinistra come cardine dell'agire politico, una sorta di rifondazione della politica che accetti di fare i conti con le regole a destra e a sinistra. Ah, secondo lei, Barbacetto, Di Pietro non è schierarsi a destra o a sinistra, è schierarsi da continuare a fare una battaglia di legalità. Ecco, ma secondo lei come mai sul caso De Magistris sono state così tante e così diverse le voci censorie? Perché, diciamo, il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto che lui si è comportato male, che ha adottato metodi sbagliati, che ha sostanzialmente violato alcune delle regole fondamentali che lo rendevano compatibile con quell'inchiesta, col territorio giudiziario in cui l'inchiesta si svolgeva, col distretto, eccetera. Perché è stato trasferito? Perché è stato criticato così ampiamente? Cioè, all'epoca di Di Pietro era tutto abbastanza chiaro, no? C'era un partito che voleva dissestare la Prima Repubblica e far saltare da Milano a Palermo, con le inchieste sulla corruzione e quelle sulla mafia, il vecchio impianto politico, e ci fu una specie di rivoluzione politico-giudiziaria accompagnata da un forte rimbombo mediatico, il grande circo di quegli anni. Adesso è tutto così un po' più, insomma, sul comportamento del pubblico ministero De Magistris sono gravate non solo le accuse, diciamo, degli avversari, ma proprio censure anche istituzionali di un certo rilievo. De Magistris a un certo punto se l'è presa col capo dello Stato. Insomma, lei non trova che insomma, questo pone dei problemi? Io non condivido naturalmente la sua lettura neanche della prima, quella che lei ha chiamato la rivoluzione, sì. Cos'era, politico-giudiziaria, eccetera. Lì semplicemente dopo la caduta del muro di Berlino e dopo l'indebolimento del sistema dei partiti, un gruppo di magistrati ha avuto finalmente la possibilità di fare un'indagine. Facendo un'indagine a fondo ha rotto le omertà che prima tenevano uniti politici e imprenditori. Gli imprenditori hanno cominciato a parlare, a raccontare il sistema e hanno incastrato i politici. Da lì non i magistrati, ma i cittadini elettori hanno bocciato e fatto crollare. Vabbè, questo è un giudizio storico sul quale naturalmente ognuno ha... Sì, certo. Oggi è tutto più complicato, è vero, perché i confini destra e sinistra non sono chiarissimi, perché la legalità ha nemici di qua e di là. Dopodiché, guardiamola, cioè, probabilmente si dovrà fare un'analisi anche formale delle indagini delle magistris, magari ha fatto degli errori formali, sì, dovremmo entrare nel merito di cose abbastanza complicate. Sentiamo su questo Facci, va, sentiamo un altro tipo di opinione, Facci. Su De Magistris immagino, e quindi sulle cose che avete detto sinora. Ma io sono contento che De Magistris sia candidato con Di Pietro, naturalmente lo sono per motivi diversi da quanto detto sinora. Voglio dire una cosa subito per archiviarla. Prima, secondo me, del problema del fatto di andare a fare politica uscendo dalla magistratura, per quanto riguarda specificamente De Magistris, c'è il problema del fatto che lui ci sia mai entrato in magistratura, perché secondo me è una persona che le persone intelligenti e sufficientemente hanno gli strumenti per comprendere che è una persona inadatta, insomma, non adatta, insomma, al tipo di equilibrio che un certo mestiere richiede. Secondo me Luigi De Magistris è un personaggio, insomma, non politicizzato oltretutto, perlomeno non da principio, insomma, intriso di una serie di irrequietezze sue che, insomma, da un certo punto in poi, per usare un linguaggio giovanile, hanno fatto sbroccare, come si dice, e ora fanno sì che sia lì, che, come hai detto ieri, che voglia portare istanze di giustizia e verità, insomma, in Europa. Io sono comunque contento proprio perché della sua candidatura, perché appunto da una parte per ciò che rappresenta essere un magistrato, insomma, andrà a fondare in Europa a fare ciò che sostanzialmente ha combinato con la sua inchiesta, che cioè niente, però insomma senza il pericolo che nuoccia a delle persone. Vabbè, quindi lei diciamo è contento in senso ironico, sarcastico del fatto che... No, sono contento nel senso proprio, secondo me non, questa persona è bene che non faccia il magistrato. Ecco, però potrebbe argomentare in modo più preciso, perché certo. Mi pare di capire che lei dice era troppo protagonista, troppo voglioso di popolarità, le sue inchieste erano generiche, le accuse si sono sparse nell'aria senza mai approdare. Non lo dico io, insomma. Chi lo dice? Lo dice quell'insieme di cardini istituzionali che Barbacetto ha inserito in un contesto complicato, per non ammettere, secondo me, che la questione è molto semplice. Il sistema democratico prevede che non solo ci sia la storica opposizione del potere politico ai magistrati eroi, ma comunque un sistema a tenuta stagna, per cui insomma a un certo punto arriva il CSM, arriva l'associazione magistrati, si accorge che non è normale che un magistrato per cominciare vada a anno zero mentre il CSM si occupa di lui, non è normale che vada a fare le conferenze di stampa con Beppe Grillo al Parlamento europeo, e non è normale, insomma, che sia disconosciuto da tutti, cioè dal capo dello Stato, dal vicepresidente del CSM, da altri magistrati, dai GIP, insomma, che giudicavano le sue carte, i suoi superiori, la Cassazione, insomma, il CSM che appunto lo ha punito e trasferito. Insomma, secondo lei è stata una vicenda un po' pasticciata, con un fondo anche alla fine, al di là delle sue volontà esibizioniste. Ma mi faccia dire che De Magistris rappresenta anche, voglio dire, il punto di arrivo, e sono contento appunto del fatto che si sia candidato proprio perché è riuscito ad addensare, ad raggrumare praticamente tutti sul fatto che i magistrati debbano avere delle regole per cui insomma non andare con le porte girevoli dalla giustizia alla politica. Insomma, sono contento insomma anche per il fatto che è chiaro. Sentiamo Rosa dalla provincia di Milano che lo voterà. Ecco, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io al di là delle chiacchiere che ha fatto questo signore, io sono una delle deficienti che voterà questo signore, perché non crede assolutamente alle chiacchiere che si dicono. Io votavo Lega, sempre sono Lega di animo e di tutto, però credo che a questo punto la Lega si sia venduta e l'unica opposizione sia Di Pietro, e De Magistris ha praticamente schiacciato dei tasti che non doveva schiacciare. Al di là di tutte le chiacchiere che fanno i grandi signori, non ci credo, il re è nudo. Bene, perfetto. È una posizione molto netta, precisa. I mezzi di comunicazione si avvalgono di queste posizioni che sono un po' il loro fiore all'occhiello. Menichini, un voto che passa dalla maggioranza all'opposizione. È un voto che passa dalla maggioranza all'opposizione. Quindi Menichini, lei dovrei essere contento. Ma io intanto devo notare una cosa di passaggio, cioè già tra De Magistris e Di Pietro si nota una differenza, se vogliamo persino una differenza di stile, certo anche una differenza di epoca in cui i fatti avvengono, perché Di Pietro fece trascorrere 2 anni dalle sue dimissioni da magistrato al suo ingresso in politica, e questi 2 anni lui li fece trascorrere, almeno così disse, era una temperie politica un po' più movimentata di questa, per ripulire la propria immagine di tutte quante le, diciamo, inchieste che erano a suo carico, disciplinari, penali, di tutti i tipi, e in parte ci riuscì. Quando poi Di Pietro entrò in politica, c'ha molti avversari, ancora alcuni, molti che lo contestano anche sul piano dei suoi comportamenti privati, però De Magistris non ha fatto passare neanche 2 mesi. De Magistris è un personaggio, un magistrato, il cui ruolo sia dal punto di vista penale adesso che dal punto di vista disciplinare non è riuscito fino adesso a chiarire la propria posizione. Questo, quando uno si propone al test degli elettori, è un passaggio abbastanza importante. Sì, dopo, cioè non è esatto cosa la storia di Di Pietro? No, non è, è proprio, cioè, cronologicamente, storicamente, non, mi chiedo scusa se ho interrotto. Sì, prego. Però Di Pietro si è dimesso alla fine del 94 e formalmente a metà del 95. Per quasi 2 anni ha fatto comunque consultazioni private per fare politica, e voglio dire, quando ufficialmente le indagini contro di lui, ufficialmente significa che sia stato indagato, si fa per dire, sorprendono, lui era già ministro dei lavori pubblici, ministro, sì, inoltre, sì, appunto, ce lo ricordiamo, certo, lo ricorderà, certo, appunto, se era candidato, no, si candidò perché le accuse lo raggiungevano, appunto, si dimise da ministro. Questa è una visione, va però, bene, insomma. Allora un attimo solo, Cataldo della provincia di Crotone che fa una domanda. Cataldo? Sì, buongiorno dottor Ferrara, complimenti per la trasmissione. Niente, grazie. Io la domanda che ponevo a lei e ai suoi ospiti è soprattutto sul parallelismo De Magistris Di Pietro. Se non ricordo male, Di Pietro lasciò la magistratura in maniera eclatante, dimettendosi dai ruoli della magistratura. Poi, dopo trascorso un periodo, è andato a fare politica. De Magistris, mi piacerebbe sapere se si è dimesso dai ruoli della magistratura o solo ha fatto richiesta di aspettativa per entrare in politica. Guardi, gliel'ha chiesto il conduttore di Omnibus e lui ha risposto, devo dire con una faccina un pochino imbarazzata, questo va detto, che ci sono dei passaggi tecnici, non ha specificato quali, che lo obbligano adesso a mettersi in aspettativa. E poi però lui se ne andrà dalla magistratura, ma quando lo decide lui. Insomma, aveva l'aria di non gradire questo tipo di... Chiedo scusa, spesso assistenziale di pensione. Uh-huh. Anche Di Pietro si dimise esattamente nel dicembre del 94 perché nel mese precedente aveva maturato il diritto alla pensione per la Corte d'Appello. Spesso le questioni sono... È anche la stessa ragione perché Ayala è tornato a fare il magistrato, gli mancava 1 anno e mezzo per avere la pensione. Esistono per tutti le questioni pratiche. Eccoci qua, stiamo parlando del caso De Magistris, il controverso magistrato, controverso non personalmente ma per il lavoro che ha svolto e per il modo di svolgerlo, per la notorietà alla quale ha dato la caccia, che si è comunque insomma, diciamo, procurato in questa specie di distretto giudiziario nazionale ed europeo che è diventato da un certo punto in poi l'arena televisiva, e insomma il suo ingresso in politica. Carlo dall'Aquila. Carlo. Sì. Allora, mi permette di farle brevemente le congratulazioni per essere... No, no, no, le congratulazioni no, la ringrazio molto, le do per acquisite, anche... Okay. Preferirei o un consenso o un dissenso argomentato sul tema. Bene, io la vedo un po' in imbarazzo. Questa questione di sollevare il conflitto nei confronti di una persona specifica e poi... non prendere provvedimenti di sistema è una cosa, come lei sa benissimo, che è stata, in cui la sinistra si è gongolata per anni con la storia di Berlusconi, però non è un'operazione che sinceramente mi piace molto. Io credo che le persone che si mettono in luce per vari motivi hanno sempre questioni di conflitto poi nel momento in cui scendono in politica. O il sistema si cautela con dei provvedimenti o altrimenti... Cioè lei dice, ho capito, lei dice Ferrara sia più sostanzialista, lei ha accettato a volte anche con entusiasmo, non sempre per la verità, che Berlusconi facesse politica ed era pieno di conflitti di interesse tra il suo ruolo di imprenditore e proprietario di televisione e la politica, deve accettare anche che De Magistris, che la pensa in un certo modo, è critico verso le classi dirigenti, le indagate, eccetera, poi entri in politica. Sì, ma io infatti non faccio mica le barricate, dico soltanto che diciamo, insomma, il passaggio però dall'imprenditoria alla politica, alla tutela di una funzione imparziale come quella della magistratura, di quanto non lo leda un caso come quello di De Magistris. Questo mi sembra abbastanza, è d'accordo Carlo su questo? Non è però... su cui io sono polemico, sì, è quella di sollevare il problema quando si manifesta in una persona specifica, sia Di Pietro, sì, sia De Magistris, sia Berlusconi, e poi non fare nulla, pur avendone le possibilità, per migliorare il sistema. Ha ragione, ha ragione. Io mi sono permesso in una rubrica su Panorama di scrivere come prima cosa, proprio in omaggio a questo fatto, dico, vabbè, è inutile chiacchierare sul caso De Magistris, bisogna scrivere, fare Alfano, il ministro della giustizia, faccia una legge di un solo articolo. Chiunque ha un potere giurisdizionale nella magistratura penale o civile può candidarsi alle elezioni politiche solo 5 anni dopo aver lasciato questa funzione giurisdizionale, il che significa che nessuno è invogliato, incentivato, interessato a usare la sua funzione di magistrato per crearsi un nome, una reputazione, una piattaforma tale da entrare in politica. Queste cose, diciamo, l'uso parziale di parte delle magistrature pubbliche sono problemi dai tempi dell'antica Roma, insomma della Repubblica Romana, non sono problemi di oggi né di ieri, sono problemi storici di tutti i sistemi politico-istituzionali. Barbacetto, mi piacerebbe diciamo, capire qual è la sua opinione proprio su questo punto, l'imparzialità. Lei ci crede nell'imparzialità o è anche lei, come il nostro ascoltatore dell'Aquila, un sostanzialista? Pensa che poi alla fine qui c'è una battaglia tra i buoni e i cattivi, tra gli onesti e i disonesti, e bisogna schierarsi? No, no, io ci credo all'imparzialità e, malgrado faccia il giornalista da molti anni, sono riuscito anche a non diventare cinico. Ci credo davvero all'imparzialità vera. E allora su De Magistris appunto lo ritengo imparziale perché, ripeto, ha indagato Pittelli, centrodestra, e ha indagato Mastella e Prodi, di centrosinistra. Non è imparzialità questa? Ma lei è sicuro che l'imparzialità si dimostri indagando in tutte le direzioni? Io credo che l'imparzialità si dimostri indagando bene, in profondità, certo, con buoni risultati giudiziari su coloro che devono essere indagati, se no è troppo proprio facile. Ecco, proprio su questo. E come? Io faccio le indagini non su dimentichiamo, tutti. Non dimentichiamo una cosa. Allora, un conto è avere idee politiche, tutti ce l'hanno, un conto è dire tu hai delle idee politiche, dunque quando giudichi, quando fai il tuo mestiere non sei credibile. È come dire, io non mi faccio operare da un chirurgo di destra perché sono di sinistra o da un chirurgo di sinistra perché sono di destra, perché siccome sono della sua parte avversa mi affonda il bisturi e mi ammazza. Cioè non riesco a capire, uno può avere le sue idee e mantenere, però quando deve giudicare giudica sui fatti e non sulle idee. Non viene giudicato, nessun imputato viene giudicato per le sue idee, ma per i fatti che commette. Io credo che De Magistris sui fatti, abbia cominciato ad indagare, poi bloccato, quindi non ha finito. Tant'è vero che, appunto, ripeto, Pittelli da una parte, Mastella e Prodi Menichini dall'altra. Scuote e la allora testa. Io le dico solo una cifra per no, capire, questo solo riferimento ai fatti. 800 milioni di euro. Sì. 800 milioni di euro sono gli investimenti per i depuratori in Calabria. Sì. Di questi 800 milioni di euro... Investimenti, cioè sono spesa pubblica... spesa pubblica, soldi nostri... Erogati. Che la Calabria usato, sì. Che la Calabria ha speso per fare depuratori. Non c'è in Calabria un depuratore che funzioni. Il mare continua a essere sporco. Allora questi 800... No, il mare calabrese è pulitissimo, mi scusi, non dica... È pulitissimo, io ho una barca, viaggio, si fa il bagno... No, io sul global warming e sull'inquinamento così a scazzo non sono d'accordo. Il mare calabrese è pulitissimo, glielo dico io. Va bene, allora... No, ma glielo dico per esperienza. Va bene, benissimo, allora è pulitissimo, però i depuratori non funzionano, questi 800 milioni di euro qualcuno se li sarà mangiati, li ha mangiati la politica di destra e di sinistra. Allora l'indagine, la prima indagine di De Magistris, che si chiamava Poseidone, era proprio su questa immensa ruberia di denaro pubblico, 800 milioni di euro finiti in opere non finite, non collaudate. Vabbè, non però queste inchieste le fa anche il Gabibbo a Striscia la Notizia, quando uno è magistrato. Il Gabibbo l'hanno lasciato finire ed è magistrato, l'hanno bloccato prima. Menichini stava anche... Siccome io sono d'accordo con Barbacetto che in Calabria, adesso si parla della Calabria, in tutto qua, e ci sono intere regioni del paese dove la criminalità organizzata controlla il territorio, sono tanto più per questo, se mi consentite il termine, scandalizzato dal fatto che magistrati non capaci siano riusciti a rovinare, come De Magistris, secondo me, mi permetto anche di dare questo giudizio, tanto ormai è entrato in politica e quindi può affrontare anche questo tipo di critiche, siano riusciti a non affrontare gli effettivi grumi e dei rapporti tra la malavita organizzata e la politica, coprirli con indagini che avevano soltanto uno scopo di grande clamore pubblico e mediatico, coinvolgendo personaggi politici al più alto livello che fosse possibile, quindi cercando non la verità ma cercando il clamore dell'inchiesta. In questa maniera i depuratori e la situazione anche del mare calabrese, temo, sono rimasti quello che sono, cioè i depuratori non ci sono e la malavita continua a fare affari su questo, come su tante altre cose. De Magistris non ha concluso neanche una sua inchiesta. Adesso, diciamo così, si attiva in particolare per smantellare agli occhi dell'opinione pubblica la credibilità della magistratura nel suo insieme, perché dice che è dall'interno della magistratura che la sua opera è stata in qualche maniera impedita e si trasferisce, diciamo così, sulla trincea dei politici sui quali indagava fino a due giorni fa. Questo, secondo me, come saldo finale dà che non abbiamo giustizia, abbiamo ulteriormente squalificato l'immagine della magistratura e avremo un altro politico mediocre. Dunque, abbiamo parlato della Calabria, sentiamo Vincenzo da Cosenza e poi Facci. Vincenzo. Allora, buongiorno Ferrara, buongiorno a tutti i suoi ospiti. Allora, innanzitutto... Prima di tutto vorrei sapere se lei si fa il bagno. Eh? Se lei si fa il bagno nel mare della Calabria. Ecco questo, volevo smentirla, perché lei evidentemente con la barca andrà al largo a farsi il bagno, allora lì trova il mare pulito, ma sulle coste calabresi da 30 anni c'è sempre una striscia di sporco che dalle 9 alle 5 del pomeriggio insozza il bagno, ci sono escrementi, residuati. I depuratori in Calabria sono stati il più grande affare dei politici e delle cosche del Tirreno, special modo del Cosentino, da 20 anni a questa parte. Ma senta, io le dico due posti, Scilla, oppure le dico Tropea, oppure le dico tra Diamante e Maratea. Ma dei bagni fantastici, non ho visto escrementi, non ho visto niente di tutto quello che lei mi sta dicendo, abbia pazienza. Si parla di 30 chilometri di coste. Ah, beh, non ho capito, mi parla degli altri 500 chilometri di coste. Vabbè, vuole capire? Ah, no, le dico anche Rocella Ionica, le dico dei posti meravigliosi, Crotone. Io le dico Paola. Le dico Torre Mezzo, le dico Bagnara, le dico... Beh, andrò a verificare personalmente, comunque adesso questo esula dalla trasmissione, ma andrò a verificare. Paola Bagnara... Quando attivarono per la prima volta l'impianto di chimico a Saline, caddero tutte le olive di tutti gli oliveti di Reggio, della provincia di Reggio Calabria. Vabbè, senta Vincenzo, dica, allora, al di là dell'inquinamento del mare... Sì. Sì, no, dico al di là di questa cosa dell'inquinamento. Io da calabrese le posso testimoniare che negli ultimi 5 anni in Calabria si sono resi famosi 3 magistrati in particolar modo, e tutti e 3 hanno avuto lo stesso quasi identico destino. Allora, il primo è stato Gratteri, che è titolare delle più grosse inchieste antimafia della provincia di Reggio Calabria. Ricordo a lei come a tutti gli italiani che in Calabria abbiamo la più grande organizzazione a livello mondiale. L'Andrangheta, sì. L'Andrangheta. Ma sul caso De Magistris, qual è la sua opinione? Come? Sul caso De Magistris, qual è la sua opinione? Arrivo. Era stato sollevato dalla DIA, tranne per fortuna, per una grossa protesta di Grasso e Pignatone, che sono riusciti a fargli riottenere il posto. Facciolla aveva le più grosse inchieste sia sui depuratori e sia sulla criminalità organizzata a Cosenza. È stato spostato a Paola, trasferito subito, appena è stata annunciata. E De Magistris è anche lui una vittima. De Magistris, no, non dico che è una vittima, però in Calabria appena si toccano alcuni interessi c'è subito il trasferimento. Abbiamo la più grande organizzazione criminale d'Europa e in Calabria si prendono solamente i killer. Ossia le ultime persone che vengono a conoscenza vengono pagate e non incidono niente sulla storia, sulla politica e sull'economia di una regione, mentre chi è che manda il killer, che è veramente che incide, non viene mai sfiorato. In Calabria tutto è perfetto, eppure viviamo in uno stato d'assedio, almeno parlo per le persone oneste che pagano le tasse e che pretenderebbero l'applicazione della legge anche qui da noi. Va bene, non siamo assolutamente d'accordo sul mare della Calabria, ma insomma sul fatto che in Calabria viga, come dire, una certa anomia nel territorio e non sia proprio il regno della legge e dello Stato di diritto, mi pare che possiamo essere d'accordo. Filippo Facci al microfono da Milano sul caso De Magistris. Facci, lei ha scritto con veemenza e con una penna affilata, che insomma, e l'ho anche ripetuto qui al microfono, che De Magistris andrà a Strasburgo, al Parlamento europeo, a fare quello che ha fatto in magistratura. Niente. Però, come dimostrava la telefonata prima del nostro ascoltatore da Cosenza, la percezione nell'opinione pubblica, questo non riguarda solo De Magistris, riguarda chiunque abbia una toga sulle spalle e vada in televisione a gridare contro il potere, contro la P2, i poteri occulti, il Presidente del Consiglio, si chiami Prodi, si chiami Berlusconi, eccetera, eccetera, a prescindere poi dai risultati delle inchieste, chiunque va lì e dice io sono un contropotere, io sono dalla parte del cittadino, la giustizia è uguale per tutti, voglio punire la casta dei politici, si guadagna una grande popolarità. La gente, in realtà, o almeno una certa parte dell'opinione pubblica, perché poi quando votano le elezioni politiche votano compattamente Berlusconi senza tanti problemi, però insomma, sostiene che questi giudici giustizieri non sono quello che altri ascoltatori, Michele da Bari per esempio, vedo altri che sono qui schedati dai nostri valenti recettori delle telefonate, quello che altri ascoltatori pensano e che lei pensa e che anch'io penso, cioè che insomma ci sono comportamenti incompatibili con la toga del magistrato e con l'imparzialità con cui dovrebbe essere condotta un'inchiesta, e per cui la politicizzazione, l'essere di parte, non nasce dal fatto che si candidano perché erano di parte quando facevano i magistrati. Sì, a me l'idea di mettere delle regole non piace moltissimo. Per i magistrati, dico la verità, poi ogni caso è diverso dall'altro, bisognerebbe appunto fare degli esempi, e sui giornali di oggi tra l'altro sono stati fatti. Quello che però appunto differenzia il caso De Magistris e ne fa secondo me un punto di arrivo di un certo tipo di archetipo appunto del magistrato che si dà alla politica, e che appunto sì, diceva bene Barbacetto, che magari in Calabria si sono spartiti 800 milioni di euro. Allora che cosa si può fare? Verificare se ci sia anzitutto un reato dietro a questo e poi farlo con gli strumenti leciti che si hanno a disposizione. Non è stato ritenuto dalla magistratura stessa, dai suoi organi di controllo, che questo sia stato fatto da Luigi De Magistris. anche perché vabbè, qua con questi 800 milioni di euro si cita un'inchiesta e non si cita l'altra, che è quella più famosa, insomma, che è quella che riguarda tutta una serie di relazioni. Le inchieste sono due, Poseidone e Why Not. Poseidone, esattamente, quella che insomma è sostanzialmente un'inchiesta sul nulla, su una serie di associazioni e di cosmogonie giudiziarie che hanno fatto parte, insomma, secondo me, della seconda parte della vita del magistrato di Luigi De Magistris. Ne consegue, secondo me, che appunto il tipo di persona che sostiene, parlo insomma a livello di opinione pubblica, Luigi De Magistris, un po' come noi, parte di noi, non hanno ancora capito assolutamente di che si occupasse sostanzialmente, perché Di Pietro ha fatto mani pulite, voglio dire, e ci sono altri esempi da fare. Che cosa abbia fatto De Magistris non è chiaro, fuorché intercettare appunto un certo tipo di malcontento, ma appunto io non ce l'ho con De Magistris, perché più che intercettare il malcontento attraverso Genchi intercettava le telefonate e soprattutto e ne teneva registro, cioè io credo, filtrava i tabulati, per concludere, sì, che bisognerebbe occuparsi di chi, voglio dire, ha intercettato De Magistris e quindi della coerenza sua di appunto questo partito che citava Barbacetto e che appunto dovrebbe essere il partito a suo dire necessario e che secondo me non ha nessuna delle caratteristiche che pure sventaglia proprio in virtù di questa legalità, a cominciare insomma dal requisito per cui non candidare gli inquisiti visto che lo è, non candidare i condannati visto che l'alleato di Lista Civica Grillo è un condannato definitivo, Di Pietro, quel signore che dice che non bisogna avere più di due mandati e lui ne ha avuti cinque per più di due legislature, non bisogna occuparsi, non ci vogliono i privilegi della casta, e poi insomma abbiamo visto Di Pietro che la famiglia che ha dentro fino alla tesoreria, il rispetto della magistratura, ed è proprio la magistratura ad aver disconosciuto l'operato di De Magistris e tante altre cose, per cui insomma De Magistris per me è uno che ha fatto quel che ha potuto su una ribalta sicuramente non alla sua portata. Antonio da Firenze, Antonio. Buonasera, mi hanno appena risposto perché la mia domanda era proprio questa, mi sembrava che Di Pietro fosse stato molto chiaro sul fatto di non candidare persone inquisite, mentre ora De Magistris è inquisito. Io non entro. Qui devo dire però, scusi Antonio, che vorrei dire, insomma, che punterei tanto, De Magistris è inquisito, nel senso bisogna vedere, questa è un'indagine atto dovuto, eccetera, inquisito con lui tanti altri, è per la storia della guerra tra le procure, no? Da certo. Salerno hanno indagato sui magistrati di Catanzaro che consideravano loro avversari, quelli hanno controindagato ed è successo quell'infame pasticcio che ha gettato molto disdoro sulla funzione giurisdizionale del nostro paese. Però non è proprio un inquisito nel senso, non lo si accusa di avere tramato con delle cosche, di essere un corrotto. Il precisino, eccetera, non siamo noi, il precisino su queste cose è Di certo, Pietro. Certo, no, ma lo dicevo ad Antonio perché... Sì, sì, ma infatti io sono assolutamente d'accordo, ritenevo assurdo che non si potessero candidare persone inquisite a questo punto, visto che Di Pietro, anche se candida qualcuno che è inquisito, sia pur non per mafia ovviamente, almeno abbia il coraggio di fare un passo indietro, perché sennò la famosa coerenza di Di Pietro mi chiedo dove vada a finire. La coerenza di Di Pietro. Va bene. Io devo salutarvi e ringraziarvi. Ringrazio Gianni Barbacetto, Filippo Facci e Stefano Menichini che ci hanno accompagnato in questa chiacchierata conversazione sul caso De Magistris. E ringrazio tutti gli ascoltatori, tanti che non ho potuto mandare in onda. Franca Fossati e Gloria Guerrera in redazione, Alessandro Chiappini e Giorgio Matè in regia, linea al giornale radio e poi a Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Ci sentiamo domani mattina alla stessa ora. Baci.